Radio 24 Reportage. Cosa resta di Expo? Di Laura Bettini. Con il 67,6% di camere piene negli alberghi nei primi due mesi del 2016, Milano è andata ben oltre la Roma del Giubileo. Ha fatto meglio di Parigi, ma questo purtroppo è comprensibile, e anche di Vienna, Mosca o Pechino. Dovendo congelare il giudizio sui conti economici della manifestazione, perché la chiusura del bilancio è stata rinviata a fine giugno, quelli turistici sono importanti. Quei 21,5 milioni di visitatori di Expo, di cui 6,5 milioni stranieri, dati del Comune di Milano, sembra abbiano davvero fatto un lusinghiero passaparola sulla città. Per l'immediato va bene così, ma nel futuro saprà Milano sfruttare l'onda lunga di Expo e quell'enorme area che ha ospitato l'esposizione? Dei progetti vi parleremo la prossima settimana. Oggi intanto vi diciamo cosa c'è ancora là. Non più i 500 profughi che avevano fatto infuriare il governatore della regione, Maroni, spostati in meno di una settimana dal campo base in cui erano stati fatti alloggiare. Ora ci sono solo operai al lavoro e i prodi di Cascina Triulza, il padiglione della società civile, l'unico che non ha mai chiuso i battenti. Chiara Pennasi è il direttore generale di Fondazione Triulza. È stata un'esperienza faticosissima, ma assolutamente positiva. Noi siamo molto contenti di come è andata per noi, perché siamo riusciti a mantenere il focus sui contenuti, 800 eventi, 200 e passa organizzazioni che hanno partecipato, e poi grande passaggio di cittadini, quindi le scuole, i bambini, le famiglie, quindi un'apertura e una vetrina al mondo. Forse la prossima volta, quando lo rifaremo, cercheremo di cogliere di più le opportunità di rete con gli altri padiglioni. Dal luogo aperto che era durante i mesi di Expo, Cascina Triulza è ora un enclave in mezzo a un cantiere di smontaggio blindatissimo. Chiusa tra alte recinzioni, ha un solo accesso, il cancello vicino al carcere di Bollate. Ed è proprio all'interno del carcere che sul finire di Expo ha aperto un ristorante straordinario. Dei tanti che ce n'erano qui, quello all'interno del carcere è l'unico rimasto aperto per la gioia di chi ancora lavora lì. Perché Cascina Triulza ospita regolarmente diverse attività, soprattutto di formazione, e pensa al futuro. Ha un futuro in sintonia con Human Technopole Italia 2040, il polo scientifico che il governo progetta sul sito. Abbiamo in calendario una quindicina di eventi e 2000 persone circa passano a partecipare a questi eventi. Quindi la Cascina è rimasta l'unico punto vivo, nel senso di continuità, con il tema di Expo e con quello che era stato fatto durante Expo. Lo abbiamo fatto non solo per tenacia, ma perché l'obiettivo è sempre stato fin dall'inizio avere i 6 mesi di Expo come una grande sperimentazione per poi lasciare una traccia e continuare. Abbiamo cercato di capire che cosa si immaginava in quest'area per il futuro e quindi qual è il ruolo del terzo settore in questo sito. Se questo sarà il luogo dell'innovazione, della ricerca scientifica e tecnologica, delle aziende innovative, noi vogliamo ragionare sull'innovazione sociale, che è il tema che collega tutti i nostri 67 fondatori, tutte le organizzazioni che fanno parte della fondazione. Il 9 maggio sarà una giornata intera dedicata al lancio del progetto di Human Factory, per arrivare a fine anno ad aver un po' testato questa nostra idea di Human Factory e capire, anche una volta che abbiamo capito cosa succederà qua intorno, se effettivamente Cascina Triulza potrà essere il luogo dell'incontro tra la ricerca e il terzo settore. Dal tetto della Cascina Triulza si stenta a riconoscere il panorama di un anno fa. Palazzo Italia è lì come sempre e come sempre resterà, e l'albero della vita pure, sia pur tristemente spento. Ma le noci di cocco intrecciate della Malesia non ci sono più, il panettone bianco della Corea è scomparso e la vista è libera fino alla gabbia del Brasile, mentre la famosa rete è finita a Mondragone, provincia di Caserta. Più in là le cupole del padiglione zero, sempre più sole in quell'angolo di Expo, da cui sono state portate via anche le statue di Dante Ferretti, diretta a una casa di riposo del Varesotto. Il padiglione Angola sembra integro, ma dentro dovrebbe essere stato già svuotato completamente. Alcune sono state vere e proprie demolizioni, altri smontaggi, mi dicono. Francia e Gran Bretagna hanno messo via pezzetto per pezzetto. La Malesia, per l'appunto, se l'è mangiata una ruspa. Lo smontaggio dovrebbe finire entro maggio. Ce la si farà? Il più ottimista è il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, al microfono di Adriano Palazzolo. Beh, sta proseguendo secondo quelle che erano le previsioni. Alcuni stati purtroppo hanno lasciato i padiglioni, sono pochi stati, su tutto il resto e su quello sta intervenendo la società Expo, e che poi passerà da Expo, per farli indipendentemente dall'intervento dello Stato. Purtroppo, ma sono pochissimi padiglioni. Qualche cedimento, invece, traspare nelle parole di Francesca Brianza, assessore regionale al Post Expo, al microfono di Livia Zancaner. Ma lo smontaggio comunque deve essere ultimato entro giugno, entro fine giugno, quindi da quel punto di vista i lavori comunque stanno procedendo. Dopodiché ci sono invece una serie di strutture che resteranno. Alcuni perché già per loro natura erano destinate a essere permanenti, come per esempio Padiglione Italia, altre perché per esempio ci sono già state delle manifestazioni di interesse, in parte per esempio anche dal progetto dello Human Technopol, da una parte, e poi per esempio anche l'esposizione della Triennale utilizzerà due dei padiglioni che erano presenti su Expo, quindi una parte resta perché ci sono comunque, c'è un interessamento anche da parte di altre realtà. Più pessimistica è la previsione di Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di Milano, ma soprattutto presidente di Arexpo S.p.A., la società proprietaria del sito è responsabile del suo immediato e lontano futuro. Sicuramente non saranno tutti smantellati per quella data, nel senso che ci sono alcuni padiglioni che sono in fase di smantellamento e ce ne sono alcuni per i quali non è ancora iniziata la fase finale di smantellamento. Per cui, diciamo, l'obiettivo è concludere tutto entro la fine dell'anno, realisticamente. Senta, quali sono le problematiche relative allo smontaggio? Sono relative a singoli padiglioni in cui ci sono in alcuni casi dei problemi tecnici specifici. Eh sì, perché oltre a qualche comprensibile o anche tollerabile lentezza di cantiere, non mancano i contenziosi, come quello sul padiglione degli Stati Uniti, realizzato per conto di privati e non del governo americano, che dagli sponsor non hanno ottenuto quanto speravano e di conseguenza non hanno ancora saldato il conto delle ditte costruttrici. O quello sul Nepal, costruito con tanta solidarietà per il terremoto che aveva colpito il paese e poi finito sotto sequestro per mancati versamenti. L'unica speranza è che un privato se lo compri per rimontarlo da qualche parte appianando i debiti. Il caso di padiglioni o pezzi di padiglioni acquistati e rimontati non è poi infrequente. Quello dell'Uruguay è andato a Origio, provincia di Varese. I grandi ombrelli in acciaio dell'Oman hanno invece trovato casa a Baranzate, vicino a Milano. Spediti verso la chiusura dei lavori invece vanno i volontari del progetto Recupero Verde Expo, che, come dice il nome, si sono dati da fare per salvare le piante che adornavano i padiglioni e trasferirle in climi o luoghi adatti. Elena Galimberti. In questi 6 mesi che hanno seguito la chiusura, cosa siete riusciti a fare e quanto siete riusciti a salvare? Molto, per fortuna. Noi subito dopo la fine di Expo abbiamo organizzato un gruppo di volontari capitanati da Olga Mosfina, che era la paesaggista che ha disegnato alcuni padiglioni, il verde di alcuni padiglioni, e in totale più o meno siamo riusciti a recuperare il verde di 20-25 padiglioni. Stiamo quasi ultimando, ci manca più o meno il Vietnam e il Techno Gym, che sono andati più o meno in 18 comuni, nell'Interland milanese ma anche fuori, a Pesaro e a Montichiari a Brescia. Il numero di piante va da 500 alberi e 5.000 tra arbusti ed erbacee. I primi li abbiamo proprio raccolti noi a mano, parlo di arbusti e erbacee, e poi nella fase successiva per gli alberi abbiamo contattato le ditte di smontaggio che ci hanno aiutato con i loro uomini e gru gratuitamente. Perché è stato tutto molto bello questo progetto, come avevo già raccontato, è stato tutto fatto in collaborazione. Credevamo tutti nella passione comune di salvare il verde di Expo, credevamo tutti in Expo, e quindi è stato un valore che noi abbiamo sentito, abbiamo trasmesso ai comuni e alle persone che adesso potranno visitare questi nuovi parchi. Per esempio a Bollate hanno fatto un parco con questo verde che abbiamo salvato, a Baranzate un altro parco e altri comuni hanno messo dove serviva. Noi ex lavoratori di Expo siamo ancora uniti, ci dice Elena Galimberti. Ci vediamo ogni 2 settimane e abbiamo tanti progetti insieme. Lo smontaggio non li ha smontati. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.